teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Vicondo. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti a tutti cari ascoltatori ad una puntata del tutto speciale di Caccia Fotone, una puntata che cercherà di occuparsi di una iniziativa partita da pochi giorni in rete che si chiama Cattiva Scienza in TV. Comincio subito a dare il sito scienzaintv.ning.com, ripeto scienzaintv.ning.com, ed è un'iniziativa nata fondamentalmente in rete. Che cos'è Scienza in TV? Scienza in TV è un social network creato da persone appassionate di comunicazione scientifica. Non uso, come è noto, la parola divulgazione perché secondo me la parola divulgazione ha un'accezione estremamente negativa, ed è una iniziativa a cui stanno cominciando a partecipare molte persone anche addette proprio alla comunicazione scientifica, tra cui per esempio Cesare Barbieri, Giovanni Fabrizio Bignami, Claudio Di Giorgio, Tommaso Maccacaro, Pier Giorgio Di Freddi, Margherita Hack, insomma molte persone che hanno deciso di schierarsi contro una cattiva scienza che la nostra televisione continua a proporci. Ovviamente, come tutte le nostre trasmissioni, questa trasmissione sarà strutturata in due grosse parti. Nella prima parte saremo in compagnia dell'autore del blog chispopinga.blogspot.com, o meglio con Marco Fulvio Barozzi. Prima di tutto, Marco, levami una curiosità. Perché come nick hai scelto Chispopinga e non altri? Chispopinga è il protagonista di un libro di Simenon, L'uomo che guardava passare i treni. È un libro che mi è piaciuto, un personaggio che mi è piaciuto, e allora ho scelto questo nick. Perfetto Marco, sei stato telegrafico. A questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione saremo in tua compagnia e parleremo proprio di questo blog, di questo social network che si chiama Cattiva Scienza in TV, e nella seconda parte della trasmissione saremo in compagnia del blog Wrangle, o meglio con Peppe Liberti. Vi lascio però, prima del pezzo musicale, con una chicca tutta da ascoltare. A dopo. Il suo nome è John Titor. Cosa può esserci di vero nel racconto di un uomo che sostiene di venire dal 2036? Parleremo di UFO. Cosa c'è di vero? Cosa c'è di falso? UFO sì, UFO no. Parleremo di caccia ai vampiri. Secondo alcuni ricercatori, una nuova razza sulla Terra esisterebbe già. Parleremo del 21 dicembre 2012. Nessun viaggio attraverso le profezie può considerarsi completo se non si parla anche di Nostradamus. Ma soprattutto il più terrificante dei quesiti: come caspita è possibile che io sia vice direttore di Rai 2? I never learned. Bentornati in studio, cari ascoltatori, siamo di nuovo in trasmissione in questo speciale in cui ci stiamo occupando di una iniziativa, di un social network intitolato Cattiva Scienza in TV, una iniziativa che cerca di smascherare tutte le bufale pseudoscientifiche che vengono fatte passare per scienza in televisione. Siamo in compagnia nella prima parte della trasmissione con Marco Fulvio Barozzi, in arte Kiss Popping, e con lui stiamo cercando di parlare di questa iniziativa. Ora Marco, se dovessi presentare questa iniziativa ad un pubblico generico e se gli dovessi spiegare in che modo si riesce a definire una cattiva scienza da una buona scienza, tu come glielo spiegheresti? Innanzitutto dicendo proprio che c'è buona scienza e cattiva scienza in televisione. La buona scienza è la scienza che fa capire, è la divulgazione della scienza che fa capire quali sono gli scopi, i metodi, le procedure, i problemi anche del metodo scientifico, della scienza insomma. Mentre la cattiva scienza è diciamo una forma di spettacolo che sfrutta alcuni, se vogliamo, bisogni dello spettatore di divertimento, di mistero, di codici nascosti che è sempre stato un bisogno, se vogliamo, dello spettatore medio, ma anche dell'uomo in genere. Senti Marco, provo a fare un po' l'avvocato del diavolo, anche se in realtà la penso come te, alla faccia dell'imparzialità del conduttore, vero? Chi definisce qual è la buona e qual è la cattiva scienza? Ma come in ogni comunità lo decide la stessa comunità. Noi facciamo parte di una rete di appassionati, divulgatori, che a un certo punto nelle nostre discussioni ha pensato che ne avevamo veramente abbastanza di cattiva scienza in televisione. Potrei allargare il discorso dicendo che anche nel campo scientifico è sempre una comunità che decide. Un esempio di cattiva scienza è una trasmissione che per guadagnare audience può presentare come scientifiche delle cose che non lo sono assolutamente. Non voglio fare nomi, però diciamo che se io parlo di una determinata questione, la presento in forma spettacolare, la presento in forma magari anche accattivante e poi non fornisco sufficienti elementi per valutare se quello che è stato detto è una cosa seria, ho fatto della cattiva scienza. Insomma, più che i dati è il metodo con cui vengono trattati i dati che si sta criticando. Sì, direi di sì. Ci sono panzane assolutamente inventate, ma ci sono anche cose. Si tratta di quei fenomeni che di solito sono non falsificabili. Mi spiego. Un esempio lo fece Bertrand Russell anni fa, dicendo: se io dico che tra Marte e Giove c'è una teiera che orbita regolarmente, è un fatto che non è né verificabile né smentibile. Io, se voglio fare cattiva scienza, speculo su queste cose. Ecco Marco, giusto per citare un pochino di argomenti trattati dalle trasmissioni che fanno finta di parlare di scienza parlando invece di argomenti pseudoscientifici, ne voglio citare alcuni, per esempio sono gli UFO, asteroidi megagalattici che colpiranno la Terra, fine del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, se per una persona un pochino addentro alle tematiche scientifiche è facile capire qual è la buona scienza dalla cattiva scienza, non è facile invece per un pubblico generico. Mi vorresti dare il tuo parere, perché in realtà si è aperta una discussione sul network Scienza in TV in cui c'era qualcuno che domandava e poi più persone che discutevano su che cos'è la cattiva scienza e su che cos'è la buona scienza. Ma perché quando si guarda una trasmissione televisiva in maniera passiva questo diventa molto più difficile da analizzare? È un problema che ha delle radici profonde, innanzitutto nell'ignoranza scientifica del cittadino medio, e questa ignoranza scientifica deriva in gran parte da una cattiva, e questa volta non Scienza TV, ma da una cattiva istruzione scientifica. Purtroppo in Italia, per motivi storici, ideologici, la scienza nella scuola ha sempre avuto un posto che è stato sempre inferiore, mentre la televisione una volta aveva finalità anche educative, poteva essere magari anche una televisione bigotta, ma aveva degli scopi lodevoli. Ora la televisione è solo intrattenimento e la scienza non trova posto in dei palinsesti di questo tipo. Trasmissioni meritorie di divulgazione scientifica, o meglio di comunicazione scientifica, ci siamo ripromessi di non dire più la parola divulgazione nel corso di questa trasmissione, sono ovviamente Super Quark, la Gaia Scienza, che è andata e sta andando anche sulla 7, e poi una trasmissione che è apparsa come numero 0, si chiama Cosmo, una trasmissione ideata da Luca De Biase con all'interno molti comunicatori scientifici che il mondo della comunicazione conosce, tipo Silvia Bencivelli oppure Dario Bresciani, che è apparsa come numero 0, però di cui Scienza in TV si è fatta promotrice per sperare che la RAI, su pressione del popolo, della gente che l'ha vista, la tenga in onda, perché sembra che una trasmissione di scienza faccia comunque poco audience. Sì, anche se il dato dell'ascolto, per essere un numero 0, diciamo così, è stato abbastanza soddisfacente. Poi, appunto, come rete di blogger e di appassionati divulgatori, stiamo facendo propaganda affinché lo sforzo di De Biase venga premiato con la continuazione del programma, perché è un programma che veramente merita. Il numero 0 ha avuto qualche intoppo proprio perché i protagonisti della trasmissione non sono personaggi televisivi, ma sappiamo che sono persone che sapranno fare molto meglio, soprattutto Bressanini, non a Fiduci, io sono un fan sfegatato e del suo blog. Ecco, possibile che queste iniziative debbano venire sempre dal masso e mai dalla parte, tra virgolette, istituzionale della ricerca? Più che lettere aperte da parte della ricerca, quando c'è stato un cattivo servizio non si è visto, eppure iniziative complesse, magari come Cattiva Scienza in TV, vengono sempre dagli appassionati, eppure è paradossale, sarebbe la ricerca istituzionale tecnicamente che dovrebbe volere una comunicazione scientifica corretta in televisione? Beh, in realtà non è del tutto corretto dire che chi fa scienza si disinteressa di questo problema, perché tra di noi ci sono persone che sono ricercatori. Sì, forse manca, a parte l'Unione Astrofili Italiani che ci ha dato il suo appoggio e la sua egida, manca diciamo l'imprimatur della scienza ufficiale. Tende un po' a sottovalutare questi problemi di comunicazione e divulgazione. Il problema della divulgazione è, diciamo, spicciola così, di quella di cui ci occupiamo noi, il problema dell'outsourcing, che è la comunicazione di quello che nei laboratori si sta facendo e che non arriva al grande pubblico. È un problema quello, effettivamente. Probabilmente io penso che ci sia un difetto appunto di comprensione dell'importanza di questi, diciamo dell'umile e magari certe volte deludente lavoro che facciamo noi, qualche volta possiamo anche commettere degli errori, però veramente ci mettiamo la passione e questo deve essere capito, perché insomma qualcuno ce lo deve anche riconoscere ogni tanto. Marco, siamo in fine di intervista e quindi ti chiedo di fare un appello a tutti coloro che stanno ascoltando questa trasmissione, che non conoscono Cattiva Scienza in TV e che, ascoltata questa trasmissione, si vorranno iscrivere. Allora, innanzitutto, Cattiva Scienza in TV è una rete di appassionati aperta a tutti, aperta soprattutto ai giovani, perché non vuole esprimere critiche in linguaggio paludato, in linguaggio, vuole semplicemente che si faccia buona scienza, e per far questo, diciamo, prende in giro le trasmissioni che non si confanno ai nostri desiderata. Una cosa importante è che ci sono dei piccoli concorsi in cui si mettono in palio dei piccoli premi simbolici, se vogliamo, ma che sono un incentivo alla partecipazione da parte dei giovani. I giovani possono collegarsi al portale, possono scrivere e segnalare i casi di Cattiva Scienza in TV. Il loro sforzo sarà premiato. Perfetto Marco, ti ringrazio per la pazienza con cui hai voluto rispondere alle nostre domande. A questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Quando torneremo in studio saremo in compagnia di Peppe Liberti, autore del blog Wrangle, con cui continueremo a parlare di Cattiva Scienza in TV. Però prima di lasciarci ci andiamo ad ascoltare un'altra chicca, una chicca di qualche mese fa, addirittura del TG1. Il TG1, voglio dire il TG1, quello di Minzolini, associava l'azoto a una miscela gassosa ad alto rischio. Se fosse ad alto rischio l'azoto saremmo morti da un pezzo, visto che l'azoto prende il 78% dei gas presenti in atmosfera. A dopo. Durante gli ultimi rilievi nel silos dove sono morti asfissiati 3 operai, i vigili del fuoco avrebbero trovato tracce di azoto, una miscela gassosa ad alto rischio. Bentornati in studio, cari ascoltatori, in questa puntata speciale di Caccia al Fotone, in cui stiamo parlando di Cattiva Scienza in TV, un'iniziativa nata espressamente in rete che cerca di riunire più appassionati di scienza per lottare, diciamo così, contro la cattiva scienza in televisione. Dopo aver ascoltato le parole di Marco Fulvio Varozzi in arte Kiss Popping nella prima parte della trasmissione, adesso siamo in compagnia di Peppe Liberti, autore del blog Rangol. Buongiorno Peppe. Buongiorno a te e a tutti. Perché hai deciso di chiamare il tuo blog Rangol? Dunque, Rangol sono delle pietruzze che mangiano gli uccelli per digerire meglio, perché questo blog era nato come un blog di sfogo e allora volevo digerire delle cose, ma in realtà viene anche da tangol, che è una misura fisica del contenuto di entanglement di un sistema, e quindi insomma un gioco di parole. Insomma, un po' un blog di sfogo, come hai detto, in cui cerchi di parlare di scienza e cerchi di sfogarti parlando di quelle cose di cui non senti parlare in televisione. Sì, è un po' sì, diciamo. In realtà all'inizio era uno sfogo contro l'accademia, ma poi ho capito che era una cosa assolutamente inutile, una perdita di tempo per me e per chi mi leggeva. E allora lo sfogo si è trasferito, diciamo, sulla scrittura della scienza, delle cose che vengono raccontate poco e che possono essere raccontate meglio, diciamo, in un blog, va. L'indirizzo è www.peppe-liberti.blogspot.it. Peppe, con Marco abbiamo parlato del social network Cattiva Scienza in TV, abbiamo spiegato le sue finalità, abbiamo cercato di spiegare il perché è nato, ma a questo punto volevo sapere da te un pochino il tuo parere, vorrei capire che cosa tu pensi si possa fare realmente attraverso questo network e quali davvero potrebbero essere i punti finali, secondo te, ai quali si potrebbe arrivare con un buon lavoro attraverso questo sito. Ma secondo me, diciamo, l'aspetto interessante di questo network è il fatto che si vuole un po' usare l'ironia per smontare un po' di cose che altrimenti è difficile combattere, francamente, perché è chiaro, tu hai tante trasmissioni di divulgazione scientifica ben fatte dove persone di qualità ti spiegano le cose, ma per raggiungere un pubblico differente, più interessato o meno interessato, hai bisogno di armi diverse, cioè tu Giacobbo non lo puoi attaccare seriamente perché perdi tempo, devi giocare con lui e giocando con lui ne approfitti per mettere delle cose dentro le persone, delle curiosità, delle cose che possono fargli cambiare opinione, cioè aprirgli un mondo. Ecco Peppe, ti voglio fare una domanda che è un po' il nodo della questione. Trasmissioni come Voyager non è la sola, anche per esempio Misteri, la trasmissione che va sulle reti Mediaset condotta da Enrico Ruggeri, uno dei cantanti che a me piaceva di più quando ero più piccolo. Sono trasmissioni che esistono, resistono e persistono banalmente perché hanno forti ascolti. Mentre trasmissioni tipo Super Quark, La Gaia Scienza e Cosmo, che è quel pilot che è appena andato in Rai, ne abbiamo appena parlato con Marco, sono trasmissioni che hanno meno ascolti. E allora Voyager resiste perché ha più ascolti di Super Quark è sempre in bilico perché ha pochi ascolti. Allora la risposta che si potrebbe dare sarebbe: guardate, Voyager è una trasmissione che non comunica una verità scientifica, quindi non va guardata. La domanda però è un'altra: perché Voyager fa così tanti ascolti e Super Quark fa così pochi ascolti rispetto a Voyager? Perché questo genere di argomenti hanno sempre attratto tutti, perché tutti si leggono l'oroscopo sul giornale, anche se non lo confessano, e quindi hanno la trasmissione fatta per loro. Insomma, poi ti dà poco da pensare, come dire, è uno show televisivo dove ti lanciano fuori, ma io in realtà lo vedo molto poco, non l'ho visto quasi mai. Però c'è un fatto, io ho visto anche poco Super Quark, e questo mi sta dando da pensare, voglio dire. Forse è lo stile di conduzione, forse è il modo di porre gli argomenti che hanno le due trasmissioni, al di là del fatto appunto che quel genere di argomenti è un genere di argomenti semplice che soddisfa molte esigenze, come dire, poco strutturate, e quindi ti basta, passi un paio d'ore a pensare che ci sono i complotti, che ci sono le cose strane, i misteri, e ti crogioli in questa situazione qui. Cioè, è un atteggiamento normale di un pubblico non tanto avvertito, insomma. Peppe, non so se ti ricordi, qualche tempo fa la trasmissione Mistero, quella di cui parlavamo prima, presentò un argomento particolare, un argomento che sta a noi caro. Daniele Bossari andò verso il CERN di Ginevra, andando a indagare sui presunti misteri che c'erano in questo acceleratore di particelle, parlando del possibile e papabile buco nero che si sarebbe creato dentro l'acceleratore e saremmo morti tutti. Abbiamo recuperato quel pezzettino in cui Daniele Bossari parlava alla povera Paola Catapano e la Paola Catapano, ufficio stampa del CERN, gli rispondeva in maniera molto piccata. Una frase celebre di Darwin era: chi tocca la natura lo fa a suo rischio e pericolo. Non pensate che possa essere un esperimento pericoloso quello di andare a cercare addirittura la particella di Dio? Non è mai pericoloso capire che cosa c'è intorno a noi. Noi siamo, ci muoviamo in un universo, vogliamo assolutamente sapere di cosa è fatto. Ecco Peppe, tu ci hai appena detto che fai un po' parte dell'Accademia, sei un ricercatore e il tuo blog nacque proprio per criticare l'Accademia, poi è cambiato nel corso del tempo, però insomma tu sei un ricercatore. Secondo te il giusto atteggiamento dell'Accademia in questo caso è quello di rilasciare l'intervista per cercare di rimettere le cose un pochino nel loro posto oppure semplicemente rifiutare l'intervista? Cioè, si hanno strumenti per controbattere al loro modo di argomentare? Perché poi è fondamentale il montaggio. Se nel montaggio le tue parole vengono montate in modo tale che tu dici cose che non hai detto, siamo punto e a capo. Guarda, non hai armi. Se tu li fai entrare, poi loro fanno quello che vogliono, montano come vogliono, tu non ti puoi difendere. Devo dire che, diciamo, un conto è il CERN, dove c'è cascata anche Paola Catapano, che è una persona avvertita in gamba. Gli Alcern si sono fatti pure quattro risate in realtà dopo, perché ne abbiamo parlato, ho sentito degli amici che sono lì, qualcuno ha riso, qualcuno si è arrabbiato. Ma se Bossari arriva all'università in questo periodo, ho l'impressione che l'università gli apre le porte e lo fa entrare con tutti gli onori, insomma. Sono un po' preoccupato, diciamo. Si comincia a non distinguere più il vero dal falso, cioè, come dire, facciamoci pubblicità perché le cose non vanno bene, usiamo pure Bossari, non mi sta tanto bene questa faccenda, diciamo, io lo eviterei. Sentimi, vuoi dire in due parole qual è l'importanza di diffondere, tra virgolette, il verbo scientifico non solo attraverso il linguaggio dell'Accademia, ma anche attraverso il linguaggio dei blog, quindi attraverso un network di blog scientifici tra i quali ci sei anche tu? Per una questione di linguaggio, sostanzialmente, diciamo, ci vuole da un lato una certa competenza sulle cose che si scrivono, perché non si può scrivere di tutto, perché non sappiamo tutto, però, diciamo, chi sta ai margini dell'Accademia, insomma, ha la possibilità di usare un linguaggio che forse è più comprensibile, diciamo, in un pubblico che non è specialistico. Io la vedrei così, poi non lo so, è complicato perché c'è una discussione lunga in questo momento su queste cose, hanno fatto anche un convegno a Frascati recentemente dove sono stato io, c'è stato Amedeo Balbi, Tommaso Dorigo, insomma ne abbiamo parlato anche tra di noi, ma anche noi tra di noi, non abbiamo tutti le stesse idee, è una cosa che si costruisce momento per momento e tu devi entrare in sintonia con chi ti legge nel blog. E lì a quel punto costruisci le parole giuste, costruisci i discorsi come pensi che possano essere colti dal tuo pubblico. E quindi non lo so, guarda, secondo me più forme informative ci sono, non divulgative, perché la divulgazione come parola non mi piace, ma tu devi poter comunicare, sperando di comunicare ad un pubblico adulto che ha fatto delle buone scuole, dove ed è lì che si imparano le cose. Senti, invece a un pubblico adulto, colto, che invece considera la scienza come qualcosa di negativo, come comunichi? Ah beh, con quelli mi diverto. No, con quelli mi piace, la polemica mi piace. Se qualcuno ha queste opinioni, io commento parecchio con lui, quindi no, affronto la questione. Non è un problema quello. Perché, come dire, i blog, insomma, diciamocelo pure, sono un po' in crisi, ma se ne parla tanto, ma sono in crisi i blog generalisti, quelli, oppure i diari personali, quelle robe lì in cui tu racconti la tua vita. E quindi siamo in una fase in cui i blog si stanno specializzando, i blog tecnici, quelli scientifici, quelli letterari invece hanno una nuova primavera in qualche maniera. Però tu non puoi togliere mai, come dire, la personalità di chi scrive dal blog, e quello è importante, entri in confidenza e puoi raccontare a un certo punto anche cose che magari in un altro momento il tuo lettore non avrebbe accettato. Senti, utile come statistica, qual è stato il post nel corso della vita del tuo blog che è stato visitato di più? Dunque, sono soprattutto uno che si chiama Radon, è il titolo però in realtà che ha fatto arrivare un sacco di gente, perché io ho parlato di Giuliani, di queste misure di Radon che secondo Giuliani prevedono, diciamo, i terremoti, perché lui ha fatto una pagina su Facebook in cui colloquia con un sacco di gente dicendo: attenzione, ho misurato il Radon, potrebbe esserci una scossa, e tutti quanti si allarmano. Insomma, io un po' mi sono un po' arrabbiato, ho detto non si fa così, cioè non è che possiamo raccontare balle di questo tipo. Quindi ho fatto una critica a Giuliani e sta arrivando di tutto sul blog. Infatti il discorso di Giuliani non era tanto il radon in sé per sé, perché il radon è un precursore sismico. Il discorso è quanto può essere precursore sismico e se davvero il radon riesce a individuare esattamente il punto dove avverrà il terremoto, perché il nodo è tutto lì. Infatti questo non si sa, no? Cioè, francamente ci si studia sulla cosa, che ci siano questa, che il radon ci sia questa cosa sia prima che dopo i terremoti, è noto, è stranoto, lo hanno studiato parecchio in Giappone questa cosa qui, ma da qui a diventare il profeta del radon e raccontare che attenzione, fra 5 ore potrebbe esserci una scossa, poi non c'è, c'è dopo 2 giorni e dice ma l'avevo previsto, francamente insomma, da qui a fascienza ce ne corre. Senti, se volessi comunicare a dei ragazzi, quali fonti scientifiche andarsi a recuperare per andare a trovare dati di prima mano, dati ovviamente scientifici, quali fonti gli consiglieresti? Fonti ai ragazzi, è un bell'impiccio questo, guarda, io nella mia vita ho fatto delle cose con i ragazzi e io mi sono accorto che l'unico modo per interessare i ragazzi è che ci sia qualcuno, anche in questo caso, che entri con loro in sintonia e gli racconti le cose come si devono, che si sporchi le mani, vada lì con candele, tappi, che so, palloncini, si metta a giocare, ti parlo di bambini di scuola primaria, ma anche dopo in realtà, anche i laboratori dei licei, insomma. E il modo, secondo me, è andare a scuola noi dobbiamo andare a scuola e raccontargli le cose, raccontargliele giuste. Non far muovere loro. Senti, in parole povere, noi stiamo facendo quello che una volta nel 2000 si chiamava il giornalismo dal basso. Il giornalismo dal basso solamente che lo stiamo switchando verso gli argomenti scientifici. Noi stiamo facendo giornalismo dal basso scientifico, ci stiamo andando a recuperare le fonti, le stiamo andando a studiare, stiamo andando a intervistare o trattare argomenti che normalmente la stampa generalista non tratta. Stiamo facendo qualcosa di rivoluzionario, sì o no? Forse sì, e sai, forse se ne stanno accorgendo. Per esempio c'è l'ultimo numero di Newton dove un filosofo della scienza comincia a preoccuparsi dei blogger scientifici che possono sostituire le riviste patinate. Quindi magari qualcuno se ne accorge. Però bisogna evitare il conflitto, cioè possiamo essere d'esempio, possiamo collaborare con tutti, insomma. Questa è la strada da seguire, cioè, se lo vogliono fare, se vogliono capire questo nostro atteggiamento, che poi è gratuito, cioè noi ci divertiamo alla fine, no? Sì Peppe, io personalmente mi diverto moltissimo, poi a cosa serva non lo so, però mi diverto intanto. Peppe, intanto ti ringrazio per la partecipazione, ti abbraccio, ti saluto, saluto anche i nostri ascoltatori, gli ascoltatori che hanno ascoltato questo speciale di Caccia Fotone tutto online. L'appuntamento come al solito è sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Ciao Peppe. Ciao, grazie.